Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Qui abbiamo una tipica giornata di Gesù. Gesù che va alla sinagoga, poi va a casa dei discepoli, poi predica, poi guarisce, poi gli portano i vari malati, gli indemoniati e poi si vede l'inizio del giorno dopo perché si dice che al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ecco, Gesù inizia la sua giornata con la preghiera. Gesù inizia la sua giornata molto presto, perché? Perché dice al mattino presto si alzò quando ancora era buio, quindi prima ancora dell'alba, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ecco, io mi vorrei soffermare su questo versetto perché vorrei che prendessimo in considerazione questo aspetto della vita di Gesù, la sua dedizione alla preghiera. Perché Gesù appena si alza la mattina, la prima cosa che fa, prega. Forse ci vuole dire qualcosa di importante, forse ci vuole dire che quando diciamo di mettere Dio al primo posto, non basta che idealmente mettiamo Dio al primo posto, ma anche cronologicamente, ma anche nel corso della giornata, mettere Dio al primo posto vuol dire veramente dare i primi minuti, i primi tempi della giornata al Signore. Di solito quando ci svegliamo, dove va il nostro pensiero? Dipende dalle persone. Ma il più delle volte va alle nostre fissazioni, va a ciò che ci sta più a cuore, va a ciò che più ci tormenta o più ci distrae o più ci preoccupa. Quante persone si svegliano e ad esempio guardano i loro investimenti, guardano la borsa oppure guardano. Pensano subito a qualche fissazione che hanno, a qualche paura. La prima cosa che fanno è quello. Se uno ha una paura, non so, mettiamo che una persona vive una vita da delinquente, ovviamente la paura è quella di essere preso dalla polizia oppure la paura di essere trovato nel proprio imbroglio, la paura di essere sgamato. Se io ho l'amante, ho paura di essere scoperto da mia moglie o da mio marito. Ecco, dipende dalle persone, dipende che tipo di vita ho, però di solito il primo pensiero è o rivolto verso qualche preoccupazione o paura o qualche fissazione o qualche. Ma è difficile, difficile, spero che non sia così poi difficile, però a poche persone risulta che la prima cosa che facciano è pensare a Dio, è mettersi alla presenza di Dio, ringraziare il Signore per una nuova giornata. E questo vogliamo fare oggi. Vogliamo prendere spunto proprio da questo versetto. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. È importante dare i primi tempi al Signore anche per un altro motivo, perché se uno non lo fa, e si dice in italiano rimandare significa non fare, quindi quante volte diciamo sì, poi prego, però poi dopo vengono tante altre cose, imprevisti, vicissitudini varie e uno non per cattiveria, ma finisce per trascurare la preghiera. Allora la prima cosa, cerchiamo di dare i primi minuti, almeno i primi 10-15 minuti al Signore. E anche se non sono 10-15, sono 5-7, però i primi minuti diamoli veramente al Signore. E vi vorrei suggerire un segno concreto anche che può accompagnare la nostra preghiera. Sapete che nel cristianesimo il segno importante è il segno della croce. Il segno della croce perché? Noi ci facciamo il segno della croce? Perché il segno della croce esprime la nostra, è un riassunto della nostra fede. Noi diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lo diciamo toccandoci la fronte, il petto e le spalle, perché vogliamo dire: Signore, io ti voglio portare nella mia mente, nel mio cuore e nelle mie azioni, perché le spalle sono il punto in cui si innestano le braccia e la maggioranza delle azioni le facciamo con le braccia. Allora, da domani mattina cerchiamo di dire questa frase: nel nome del Padre che vive in me, nel nome del Figlio che opera in me, nel nome dello Spirito Santo che ama in me, nel nome del Padre che vive in me, nel nome del Figlio che opera in me, nel nome dello Spirito Santo che ama in me. E poi diciamo al Signore, raccomandiamo al Signore le persone, come hanno fatto qui i discepoli. Subito hanno parlato al Signore della suocera di Simone perché stava male. Pure noi parliamo al Signore delle persone che stanno male. Preghiamo per loro, invochiamo il Signore, invochiamo la guarigione su di loro o quantomeno la forza per andare avanti in maniera anche gioiosa. E buona giornata.